Imita il bene. Leggo nella Bibbia in 3 Giovanni capitolo 1 versetto 11. Carissimo, non imitare il male, ma il bene. Chi fa il bene è da Dio, chi fa il male non ha visto Dio. Cosa c'è di male in questo? Cosa c'è di male in quello? E se lo fanno gli altri, perché non dovrei farlo io? Quante volte ti è capitato di sentire queste domande? O magari sei stato tu stesso a formularle? È molto più facile seguire gli esempi negativi che emulare quelli positivi. Risulta piuttosto semplice confrontarsi con chi ci sta intorno e trovare una giustificazione al nostro comportamento. D'altra parte non si usa dire mal comune mezzo gaudio? Diventa sempre più difficile basarsi su criteri assoluti per misurare la nostra moralità. D'altra parte viviamo in un mondo basato sul relativismo. Chi può dire cosa sia giusto e cosa sia sbagliato? Ma intorno a noi, grazie a Dio, non ci sono solo cattivi esempi. Perché non impariamo a guardare anche i buoni esempi, quelli che hanno qualcosa di buono da insegnarci? Perché invece di autogiustificarci perché altri si comportano peggio di noi, non cogliamo la sfida ad essere buoni esempi nella famiglia, nella società e nella Chiesa? Questo verso ci propone proprio una sfida precisa, quella di imitare il bene piuttosto che il male, ed il motivo per cui dovremmo farlo è che il nostro modo di comportarci rifletterà il nostro rapporto con Dio. Chi fa il bene è da Dio, ma chi fa il male non ha visto Dio, ovvero non lo conosce. Prima di questo verso, non a caso, è riportato l'esempio di un uomo, Diotrefe, che si stava comportando in maniera malvagia. Di questo ne abbiamo parlato ieri. Non era questo l'esempio a cui Gaio, destinatario della lettera, doveva guardare. Nel verso seguente, invece, è riportato un bell'esempio di un tale Demetrio, del quale è scritto che è stata resa testimonianza da tutti e dalla stessa verità, e anche noi gli rendiamo testimonianza, e tu sai che la nostra testimonianza è vera. Quando una persona si comporta in maniera conforme alla verità, cioè secondo verità, è come se la verità stessa testimoniasse in suo favore e le persone che la circondano non possono che prenderne atto. Ecco qualcuno che vale la pena imitare. Se diciamo di conoscere Dio e continuiamo solo a seguire cattivi esempi per cercare una autogiustificazione a compiere il male, non c'è forse qualcosa di strano, di perverso in noi? Siamo pronti invece a cogliere la sfida di cercare di eccellere nel bene anche quando intorno a noi tutti dovessero fare il male? Non sarebbe bello se anche di noi si potesse dire che la verità stessa rende buona testimonianza?